Da una settimana è iniziata la fase 2 dell'emergenza epidemiologica. Si può già fare un primo bilancio di questa settimana. Da una parte una grande propaganda sul fatto che le persone non rispetterebbero le distanze, non rispetterebbero le norme prudenziali, non adotterebbero mascherine peraltro difficilmente reperibili, lo Stato non riesce a garantire quelle forniture che aveva promesso, c'è stato un conflitto con i farmacisti perché sarebbero costretti a vendere le mascherine ad un prezzo che non ripaga i loro costi. Ma abbiamo scontato anche un'altra cosa in questa settimana, la fine ormai di ogni retorica patriottarda e ottimistica sull'andrà tutto bene e sulle bandiere nazionali esposte. Gianfranco Pasquino osservava: non andrà tutto bene e non torneremo come prima. Primo, non è andato tutto bene, non va tutto bene, è difficile che andrà bene in futuro. Secondo, non torneremo come prima. La grande questione è quella economica. 4 milioni di lavoratori sono tornati a lavorare, molte persone possono uscire seppure con le norme prudenziali citate, ma la Confindustria non è soddisfatta e si fa sentire. Direi il ruggito di Bonomi, che appena nominato si è fatto subito sentire e che questa settimana ha esordito come, esattamente come Valletta, amministratore delegato della Fiat nel primo dopoguerra, e cioè chiedendo non già che lo Stato dia risorse per lo Stato sociale, dia risorse per le povertà, ma che lo Stato concentri le proprie risorse sull'impresa, sull'industria, sulla base del principio notissimo di una certa vecchia idea industriale che laddove c'è una impresa sana c'è un'economia che cresce e c'è una nazione che segue. D'altra parte in Italia oltre il 90% delle imprese attive sono piccole e medie, occupano l'82% dei lavoratori, hanno formulato 91.000 richieste di prestiti, ma questi prestiti promessi dallo Stato come agevolati e rapidi non sono né agevolati né rapidi, hanno creato enormi problemi, moltissimi sono ancora in attesa di questi prestiti, oppure i prestiti gli sono stati negati perché non ci sarebbero garanzie sufficienti, nonostante la garanzia a monte dello Stato che era stata promessa. Dall'altra parte, le lentezze della erogazione della cassa integrazione sono gravissime, ci sono ancora oggi richieste di cassa integrazione che dal 24 febbraio non sono ancora state soddisfatte. Intanto la cancelliera tedesca Merkel con i suoi ministri economici si riunisce in videoconferenza naturalmente con i capi delle grandi imprese nazionali, si riprogetta il rilancio dell'economia e si progetta come utilizzare le risorse europee. Ancora una volta non sarà colpa della Germania e noi non saremo vittime se la Germania saprà usare meglio e di più le risorse europee, mentre noi stiamo ancora a discutere se il MES sia, da un punto di vista puramente ideologico, un subordinarci a chissà quale violenza europea o sia invece cogliere una opportunità. Berlino e le altre capitali dell'Europa settentrionale si sono orientate verso una politica solida, strutturale di sostegno al credito che lascia le imprese libere di agire, di rilanciarsi, tutelando le banche. Da noi si discute se una concertazione tra imprese e Stato non sia rifondare, Dio non voglia, la vecchia IRI e i carrozzoni pubblici delle partecipazioni statali. Invece, in questo modo, l'Italia resta ferma, la questione non è IRI non IRI, e in questa stasi delle due aumenta il potere di condizionamento della politica, o meglio non della politica sana, della grande discussione, ma dei potentati politici. Il commissario dell'Unione Europea per gli affari economici, Paolo Gentiloni, ha detto che per l'Italia è prevista una perdita del 9,5% del PIL nel 2020, con una previsione che molti giudicano ottimistica di rialzo positivo del 6,5% nel 2021. Germania, Croazia, Austria e Slovacchia nel 2021 recupereranno gli stessi livelli di fine 2019. Italia, Spagna e Paesi Bassi saranno decisamente al di sotto. L'Italia è al penultimo posto della classifica dei 27 membri dell'Unione Europea. In sostanza, se per la Polonia è stimato un calo del 4,3%, della Germania del 6,5%, l'ultima è la Grecia con 9,7%, l'Italia la penultima con 9,5%. Tra l'altro c'è chi sostiene, come Carlo Cottarelli, che le previsioni di Gentiloni sono fin troppo ottimistiche. Cottarelli dice: nessuno sa dire con precisione se ci sarà una seconda ondata, né quando si potrà ricominciare a lavorare a pieno regime o quanto incideranno le misure di sicurezza sulla produzione. Se al fornitore italiano sul mercato internazionale si sostituisce un altro fornitore straniero, difficilmente per le aziende italiane sarà possibile ritornare in gioco. Probabilmente ci sarà un'esclusione definitiva dal mercato.